32. I ribelli comparvero lungo il sentiero che costeggiava la rapida. Perlustravano il terreno e il bosco attorno, mentre le barche accostavano alla riva. A Peter ricordarono formiche sparse su un tronco d'albero. Non portavano uniforme, ognuno imbracciava un'arma diversa. Da lontano l'esercito continentale americano somigliava a una banda di cacciatori. Peter inspirò a fondo per contenere l'agitazione. L'odore muscoso del sottobosco si mescolava alle zaffate dolciastre che salivano dal fiume. La Croix, accucciato di fianco a lui, non muoveva un muscolo. L'intera linea di fuoco era immobile. Butler aveva disposto gli uomini sul crinale di un piccolo promontorio che sovrastava la strettoia del Richelieu. L'84esimo e gli Highlander al centro, gli indiani sui lati. Li avrebbero colpiti dall'alto, al riparo degli alberi, mentre erano allo scoperto in mezzo al passaggio. Joseph scivolò silenzioso fino a raggiungere il margine della fila, dove avrebbe guidato la fucileria dei Mohawk. La Croix guardò Peter e ne intuì lo stato d'animo. «Custodisci la paura, non lasciarla libera», mormorò. «Quando tutto accade veloce, impara a essere lento». I ribelli giù al fiume scaricavano le imbarcazioni per diminuirne il pescaggio e farle passare attraverso le rapide. A gruppi tendevano le gomene e le rilasciavano quanto bastava a far scendere i battelli senza urti violenti. Affondavano e scivolavano nella melma fino alle ginocchia. Peter si rese conto che era il momento. Il grido di guerra delle Highlands risuonò sul crinale, forte, ripreso da decine di voci. Lungo la riva del fiume si diffuse il panico, che mutò in terrore cieco quando i primi 200 fucili aprirono il fuoco dal bosco. Peter non sapeva se aveva colpito il bersaglio. Quando il fumo diradò c'erano corpi a galla nell'acqua e altri che si dimenavano per non affogare. Butler ordinò la seconda salva. Le formiche corsero in tutte le direzioni, in cerca di riparo sotto i sassi del greto o nei buchi della terra. Qualcuno tentava di raggiungere l'altra sponda, ma la corrente lo trascinava via. Uno dei battelli si era incagliato tra le rocce, gli altri erano bloccati a riva. Qualcuno rispose al fuoco, mirando alla cieca, verso la macchia. La voce di Peter si unì all'urlo di esultanza dei Mohawk. Gli indiani erano bravi a far credere d'essere il doppio. I colpi proseguirono disordinati, ognuno a caccia del proprio bersaglio nascosto. Ormai li avevano in pugno. Poi terra e cielo tremarono. Peter fu investito da una pioggia di sassi e terriccio. Un groviglio di rami spezzati precipitò dall'alto. Butler corse dietro la linea dei fucilieri verso Joseph, ma scivolò e cadde. Un secondo botto e due corpi vennero sbalzati in aria, a brandelli. Butler si rialzò lercio di fango, la faccia e la giubba spruzzate di sangue. Inveì mentre raggiungeva Joseph. «Quei figli di cane ci tirano addosso con un pezzo da otto!» gridava. Assordato dagli scoppi, Peter poteva sentire ogni cosa. Joseph cercò di individuare il mortaio sotto di loro. «Dov'è?» Butler indicò l'ansa del fiume. «Dietro le rocce!» Il terzo colpo spaccò di netto il tronco di un albero che rovinò sulla fila. Uno dei soldati gridò, la gamba trafitta da un ramo acuminato. Peter sputava terra e cercava di respirare. L'aria era densa di fuliggine. Gli alberi e le felci trattenevano il fumo degli spari che diventava una fitta nebbia. «Come fanno a vederci da là sotto?» gridò Joseph, incredulo. «Non hanno bisogno di vederci», rispose Butler. «Sparano a casaccio, contro la collina. Con quell'aggeggio possono farci crollare addosso l'intero bosco, se vogliono». A suggellare le parole dell'irlandese, una quarta cannonata piombò poche yarde sopra di loro, mandando in frantumi legno e piante. Gli indiani erano terrorizzati, sul punto di disperdersi. Joseph corse lungo la fila insieme a Butler, urlando con quanto fiato aveva. «Fermi! Continuate a sparare!» Peter lo perse di vista in mezzo al fumo e al fogliame. Solo allora si accorse di premere sui palmi per alzarsi. Le gambe volevano correre via da lì, ma la mano di La Croix lo teneva a terra. Il quinto colpo di mortaio aprì un corridoio tra gli alberi e rimbalzò fin quasi alla cima del pendio. La cascata di rami e foglie seppellì metà della fila, impedendo di fare fuoco. MacLeod urlava ordini ai suoi uomini, agitando la spada. Giurava su Sant'Andrea e San Colombano che avrebbe sbudellato chiunque avesse voltato la schiena al nemico. L'aria era ormai irrespirabile, non si vedeva più niente. Peter faticò a riconoscere Joseph e Butler negli uomini che gli si sdraiarono accanto. Il fango e le pitture di guerra si mescolavano sulla faccia dello zio, dandogli un'espressione mostruosa. Butler urlò sopra il rumore della foresta che andava in pezzi. «Dobbiamo sganciarci a piccoli gruppi e risalire fino al crinale!» Joseph scosse la testa. «No, lassù saremo bersagli più facili!» «Non c'è alternativa!» ringhiò l'irlandese. Joseph guardò la Croix. I due si fissarono. Aveva perso il conto delle cannonate. Le orecchie gli ronzavano, tossiva e sputava. «Andiamo noi!» disse Joseph. Lanciò un verso acuto e dalla fila si staccarono Kanatawakon e Saki Enakenta. Oroniateca e Canenonte, i muscoli lucidi di sudore, affiancarono la Croix. Joseph guardò i guerrieri e si avvicinò a Peter, fino ad agitargli in faccia. «Risalire è pericoloso quanto restare qui. Perciò l'unica salvezza è scendere. Dobbiamo avvicinarsi al mortaio, capisci? Dove non può colpirci. Farlo smettere». Peter annuì, trasognato. «Stai un passo dietro di me», disse Joseph. «Tieni giù la testa e quando te lo dico, buttati a terra». Guardò Butler, in attesa del suo assenso. «D'accordo, prendete due fucili ciascuno. Vi darò tutta la copertura che posso. Che Dio vi guardi, maledetti pazzi». Caricarono le armi e iniziarono a scendere al piccolo trotto, fendendo le felci e il fumo sempre più fitto. Senza fare rumore raggiunsero il margine del bosco e si acquattarono dietro un grosso tronco abbattuto, a una trentina di yarde dai ripari dei ribelli. Dopo lo sbandamento iniziale si stavano riorganizzando, cercavano di recuperare il materiale e radunare le forze. I colpi del mortaio volavano alti sulle loro teste, fischiando forte. Peter lo individuò, dietro un gruppo di rocce dove l'ansa del fiume creava un piccolo avvallamento. Era discosto dal grosso della colonna, fuori tiro. Lo difendeva un gruppo di uomini appostati dentro una buca sprofondata nel fango fino a diventare una trincea. Il mortaio si trovava a poche decine di yard più indietro. Quando il vento aprì un varco nella nebbia, Peter distinse gli artiglieri. In quel momento vide la Croix, coltello e mazza alla cinta, fucile a tracolla, tomahawk in pugno. Joseph iniziò a sparare sulle postazioni ribelli, seguito dagli altri. Sopra di loro, dal fianco della collina, gli Highlander davano fondo alle munizioni, incitati dalle urla roche di Butler e MacLeod. Fu allora che la Croix saltò fuori dal riparo. Peter Johnson assistette incredulo a quel che seguì. Più tardi, quella notte, tornato al forte, dovette scomporre, ricomporre il ricordo dei gesti, come un gioco a incastro, per renderlo plausibile alla propria stessa immaginazione. Raccontarlo sarebbe stato impossibile. La Croix aveva raggiunto le difese nemiche, nascosto da un mantello di fumo, senza correre, camminando spedito e silenzioso. Qualcuno, forse un ufficiale, dall'altra parte aveva gridato «Sparate! Sparate!». Troppo tardi. Il diavolo era già in mezzo a loro. Il capitano Jacobs si voltò, le mani sullo stomaco. Mentre vacillava, ebbe il tempo di vedere l'indiano spaccare il cranio al secondo ufficiale con un solo colpo di tomahawk e piantare il coltello nelle costole del sergente maggiore. Erano movimenti fluidi, una danza. «Dio mio!» Sentì le ginocchia cedere. Si accasciò, sputò il sangue che saliva in gola e cercò l'aria a bocca spalancata. «Dio mio!» Qualcuno dal battello diede l'allarme. Da dietro le rocce urlarono di tacere che gli alisti erano bloccati sulla collina, sotto il tiro del mortaio. Il capitano Jacobs chiuse gli occhi e li riaprì. Tutto era offuscato. «Il Signore è il mio pastore!» Il tenente Bones si ritrovò la canna del fucile sotto il mento mentre cercava di imbracciare la propria arma. Il colpo gli staccò la testa di netto e la fece volare lontano. «Su pascoli erbosi mi fa riposare e ad acque tranquille mi conduce». Donkerz alzò il fucile, ma il panico gli impedì di sparare dritto e si ritrovò le budella tra i piedi, le mani che annaspavano nel tentativo di trattenerle. «Mi rinfranca e mi guida per il giusto cammino». Abramson si avventò alla baionetta, digrignando i denti. Quando il tomahawk gli spezzò il braccio con un rumore secco, rimase immobile a contemplare l'arto che pendeva dalla spalla. Poi alzò il capo per ricevere il colpo di grazia in piena tempia. Per amore del suo nome. Martins scivolò sulla melma viscida mentre tentava di strisciare fuori. Una sola coltellata alla coscia gli recise l'arteria e lo lasciò morente sul fondo del battello a urlare come un maiale scannato. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Gli artiglieri stavano aprendo il fuoco contro l'ombra che avanzava lenta verso di loro. Come fai a sparare a un'ombra? Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Fuggite, avrebbe voluto gridare il capitano Jacobs, se solo gli fosse rimasto fiato in gola. Vide Rogers cadere per primo con l'ascia nel petto. Gli addetti al pezzo si scagliarono in avanti, rabbiosi. L'ombra si abbassò, ne azzoppò uno mentre colpiva l'altro col calcio del fucile e già li finiva entrambi con il pugnale. Dio mio, pensò Jacobs, appoggiando la fronte al terreno, le ginocchia raccolte sotto la pancia. Respirò l'odore umido dell'erba misto a quello del proprio sangue. Vide l'ombra tornare indietro. Dio mio, pensò ancora, prima che l'ultimo conato gli facesse sputare l'anima. I bastioni del forte li accolsero in un abbraccio protettivo. I combattenti si buttarono qua e là, rannicchiandosi sotto coperte e pellicce, accanto ai falò. Pochi ebbero la forza di attardarsi a raccontare e rivivere la giornata campale. Ci sarebbe stato tempo, l'indomani, quando il mondo fosse riapparso intorno a loro. Peter sedette, troppo spossato anche per battere le palpebre. Le parole di zio Joseph e John Butler arrivavano a folate. Avevano respinto i ribelli, inflitto loro molte perdite, ma presto ne sarebbero giunti altri. Bisognava tenere duro, dare tempo a Carleton di organizzare le difese della città. Peter ascoltava, ma la mente era altrove. Sentì la mano di Joseph sulla spalla. «Oggi ti sei comportato bene. Molly potrà essere fiera di te. Adesso dormi». Il ragazzo si stese, ma impiegò molto tempo a prendere sonno. Ogni volta che chiudeva gli occhi rivedeva l'attacco di Lacroix e poi il guerriero che li attendeva sulla riva del fiume, coperto di sangue fino ai capelli. Orognateca e Canenonte si scostavano al suo passaggio, timorosi e ammirati. E il volto di Lacroix, sotto il sangue che si rapprendeva ogni muscolo si era fermato. Le labbra erano secche e piene di crepe, il letto di un fiume morto battuto dal sole. Il diavolo passava oltre. Lo avevano visto fermarsi 50 yard più in là e togliersi i vestiti, dimentico di tutto. Era entrato nell'acqua a passi pesanti, si era lavato via il sangue dalla pelle con grandi, ruvide manate. Peter aveva guardato suo zio. Joseph aveva fissato a lungo il vecchio compagno d'armi. Peter si rigirò nella coperta. Attraverso le palpebre, le fiamme guizzavano al ritmo del tamburo e della cornamusa. Una danza di guerra e di morte.